184. Bombe composte. Queste bombe devono essere scoppiate la prima volta a Bologna. La carica che contengono di cacio e mortadella me lo fanno supporre. Comunque sia, aggraditele perché fanno onore all'inventore. Acqua grammi 180, farina grammi 120, formaggio gruyera grammi 30, burro quanto una noce, mortadella di Bologna, grammi 30, uova numero 3, un pizzico di sale. Mettete l'acqua al fuoco col burro e col sale e quando comincia a bollire, gettate in essa il formaggio a pezzettini e subito la farina tutta a un tratto rimestando forte. Tenete la pasta al fuoco 10 minuti, circa, rimuovendola sempre, poi lasciatela ghiacciare. Lavoratela moltissimo e da riprese col mestolo, gettandovi un uovo per volta, prima il rosso, poi la chiara montata, e quando sarete per friggerla, aggiungete la mortadella a dadi larghi, 1 centimetro e grossettini. Qualora l'impasto riuscisse un po' troppo sodo per la qualità della farina o perché le uova erano piccole, aggiungetene un altro. E ne otterrete tante che basteranno per 6 persone. Se queste bombe sono venute bene, le vedrete gonfiare e rimaner vuote dentro, ma ci vuol forza in chi le lavora. Servitele calde per contorno a un fritto di carne o di fegato, oppure miste a qualunque altro fritto.